si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buon sabato cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati in diretta con Si Può Fare, staremo insieme fino alle 10. I nostri contatti, se volete interagire con noi da subito in tempo reale, l'account Twitter del programma è @ Si Può Fare 24, il mio @ Ale Maurizi, siamo anche su Facebook, Si Può Fare _ Radio 24. Torneremo a parlare oggi, dopo aver dato un'occhiata ai giornali, con la solita rassegna stampa del weekend, a parlare dei lavoratori dello spettacolo. Dopo il licenziamento dell'Opera di Roma, i sindacanti lanciano un'idea originale, una volta tanto, uno sciopero al contrario. Andranno a lavorare ma raccoglieranno fondi per avvicinare la gente alla lirica, perché a pensarci bene è questo che ha portato al fallimento, non solo stipendi e privilegi eccessivi, che sicuramente in un ente pubblico come quello dell'Opera di Roma c'erano e ci sono, ma anche una scarsissima capacità di promozione della lirica italiana da parte dei manager. Dunque, sindacati che mettono il dito nella piaga e per una volta tanto lanciano un'idea originale. Poi naturalmente parleremo proprio mentre Genova si assiste all'ennesima alluvione e mentre il ministro Galletti dice attenzione che con lo sblocca Italia metteranno in cantiere le opere contro il dissesto idrogeologico, le associazioni ambientaliste lanciano l'allarme al contrario, perché dallo sblocca Italia al decreto crescita e competitività già approvato è un fiorire di norme che favoriscono costruzione di nuove opere e scempi ambientali di ogni tipo, cemento, trivelle, nuovi inceneritori. È con questo che vogliamo rilanciare la crescita italiana? Ce lo domanderemo più avanti. Adesso però andiamo ad iniziare. E come sempre una buona notizia per iniziare bene il weekend. Questa volta siamo a Bari. Ricorderete sicuramente la vicenda annosa di Punta Perotti, gli ecomostri realizzati a pochi metri dal mare, poi abbattuti fortunatamente dopo una serie di lunghissimi contenziosi, un contenzioso che forse non finirà mai. Però adesso c'è un punto: il tribunale ha stabilito che il comune non deve risarcire niente ai matarresi, all'azienda che era proprietaria di quegli ecomostri. E dunque il sindaco di Bari, De Caro, l'altro giorno, due giorni fa, ha commentato: nessun barese pagherà un solo euro per l'abbattimento di Punta Perotti. Il comune, ha detto il sindaco, non deve nulla alle aziende, l'abbattimento era legittimo. Da oggi possiamo parlare del futuro di quel tratto di lungomare, che dovrebbe ospitare ristoranti, parchi e strutture insomma polivalenti, qualcosa di meno invasivo dei famosi ecomostri. Insomma, forse questa vicenda di Punta Perotti è arrivata a un punto finale positivo. E vai! Oh, ma andiamo invece a vedere di che cosa si occupa i giornali di oggi. Cominciamo a sfogliare il Secolo XIX per vedere quali sono le notizie che, insomma, non dell'ultima ora, perché i giornali sono di ieri, ma insomma anche gli approfondimenti, le denunce su quello che è successo ieri a Genova. Genova resiste, il titolo del Secolo XIX, più danni che nel 2011, rabbia nelle strade allagate, ma la città reagisce coi suoi angeli del fango, come sempre si aiuta da sola, mentre le autorità si accusano a vicenda e dal governo arrivano solo parole. Un uomo di 57 anni è morto, centinaia di negozi e imprese sono di nuovo a terra e i lavori del Bisagno sono fermi da 3 anni per niente. Gli errori dell'ARPAL e le indecisioni dietro il disastro. C'è un orario preciso nel quale Genova viene condannata al disastro, scrive il Secolo XIX, sono le 18:10 di giovedì e l'assessore regionale Paita chiama gli uffici dell'ARPAL. Il maltempo, le dicono, è in attenuazione, vada a casa tranquilla. Il motivo per cui, insomma, l'ARPA, lo sapete, si è difesa dicendo, lo riporta anche il Secolo XIX, che la defiance nelle previsioni è legata all'estemporanea inattendibilità di un modello matematico che fin qua invece era stato usato con successo. Però poi, scrive il Secolo XIX, si scopre anche che un ufficio gravato da tante responsabilità come quello di ARPAL, cui il comune delega l'intera fase di previsione avendo smantellato il proprio dipartimento meteo, è privo di un capo, dipartimento da quasi 2 anni, e questo chissà se può aver inciso oppure no. Il cortocircuito si concretizza, scrive ancora il quotidiano di Genova, definitivamente alle 18.10 quando ARPAL, dopo la precedente informativa più allarmistica, compie l'ultima e fatale retromarcia. Graduale indebolimento, nessuna proclamazione di allerta e assessore regionale alla protezione civile rassicurato e congedato. È come se in quel momento i revisori avessero staccato la spina e il comune prende atto con solerzia. Alle 19 un tweet avverte che il numero verde della protezione civile è disattivato. Insomma, si sbaracca. Scrive ancora il Secolo XIX a proposito dei lavori sul Bisagno. 3 anni per dire che si ricomincia da capo. C'è un lavoro urgentissimo da completare, c'è un'impresa che aveva vinto un appalto, i lavori sono rimasti congelati da ricorsi e pronunciamenti di 3 diversi tribunali amministrativi fino a che il TAR del Lazio ha riunito 4 differenti fascicoli. È una follia questa tutta italiana per dire che quella gara andava bene così com'era. Nel frattempo la città è stata travolta da una nuova ondata di fango, morte e dolore, mentre i cantieri infiniti non si sono spostati di un centimetro. C'è un altro dettaglio da puntualizzare. È vero che la carenza di interventi strutturali è la prima causa, è vero che è necessario uno stato d'allerta che i meteorologi dell'ARPAL non hanno innescato la macchina, diciamo, degli interventi. Bisognerebbe anche sapere che la zona ridosso di Borgo Incrociati, dove è stato trovato il corpo di Antonio Campanella, non ha un piano di emergenza di dettaglio, come per esempio invece ce lo ha dopo il 2011 il Ferreggiano, no? E quindi, dice il Secolo XIX, non c'è un prontuario radicale che, se le condizioni meteo precipitano, permette di adottare in automatico una serie di misure preventive per le persone. E va bene, ogni volta scopriamo tutto quello che non funziona nell'allerta, che però, è bene dirlo, invece in altre occasioni ha funzionato, nelle macchine degli interventi, e anche qui spesso e volentieri invece funziona. E quello che invece non funziona sicuramente sono gli interventi strutturali. Il ministro Galletti, l'abbiamo detto in apertura, annuncia con lo Sblocca Italia, anche ieri c'è stato paradossalmente nelle stesse ore in cui succedeva il disastro a Genova la conferenza stampa a Palazzo Chigi su Italia Sicura, però insomma questi interventi si annunciano ma non si vedono. Vedremo se lo Sblocca Italia sarà il modo per farli questi lavori, però ricordiamo anche che le associazioni ambientaliste dicono che sempre dentro lo Sblocca Italia, per sbloccare, a furia di sbloccare, si stanno sbloccando anche nuovo cemento e nuove opere senza le dovute, diciamo, cautele, dovute valutazioni di impatto ambientale, eccetera eccetera. Ne parleremo più avanti dopo il giornale radio delle 9. Qualche altro titolo dei giornali prima di andare alla linea della rassegna stampa europea, poi continueremo con la rassegna dopo il GR delle 8. L'Unione Europea avverte l'Italia, scrive Repubblica, rientrate in regola. E poi il commento del Fondo Monetario Internazionale, bene il Jobs Act. Il negoziato tra Roma e Bruxelles sui conti pubblici entra nella fase più calda, quella decisiva. Ieri a Washington il ministro Padoan, a margine dei lavori del Fondo Monetario, ha incontrato il commissario europeo Katainen e i colleghi di Francia, Germania, Sapin e Schäuble. Il Nobel in nome dei bambini. Il Nobel per la pace cerca di trovare una bella storia, questa volta ci è riuscito. La storia di Malala era bellissima e la predestinava a 17 anni, una vita di scorta carica di onori sotto i quali non soccomberà perché sa che cosa vuole. Vabbè, questo è il commento di Adriano Sofri in prima pagina, all'interno però l'articolo è questo: un'adolescente pakistana che ha sfidato le minacce dei Taliban perché voleva studiare, un attivista indiano che si batte contro il lavoro minorile. Il premio Nobel per la pace 2014 attribuito a Malala e a Kalish Satyarthi, spero si pronunci così, è un simbolo della necessità di tutela per i bambini di fronte all'integralismo e allo sfruttamento. Ci fermiamo, riprendiamo con i giornali italiani dopo il GR delle 8. Adesso linea alla rassegna stampa europea con Giulia Crivelli. A dopo. Si può fare cronache da un paese migliore. Buongiorno, ben ritrovati cari ascoltatori da Alessio Maurizi. Così può fare, ci staremo insieme fino alle 10. 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta, i nostri contatti se volete interagire con noi su Twitter, per esempio @sipuofare24, l'account di Twitter. Siamo anche su Facebook, si può fare @radio24. Torneremo, dopo aver dato un'occhiata alle prime pagine dei giornali di oggi, a parlare dei lavoratori dello spettacolo, perché dopo i licenziamenti l'Opera di Roma, i sindacati lirico-sinfonici lanciano un'idea una volta tanto originale, uno sciopero al contrario. Andranno a lavorare ma raccoglieranno fondi per avvicinare la gente alla lirica, perché in effetti, pensandoci bene, questo, al di là dei privilegi, degli stipendi troppo alti che probabilmente c'erano all'interno dell'ente pubblico, era proprio questo il problema, l'anello mancante, la promozione, la diffusione della lirica italiana. E poi parleremo proprio mentre a Genova si assiste all'ennesimo disastro e mentre il ministro dell'ambiente Galletti dice guardate che con lo sblocca Italia sbloccheremo i cantieri per il dissesto idrogeologico, le associazioni ambientaliste lanciano un allarme al contrario, perché dallo sblocca Italia, che deve essere ancora approvato, al decreto crescita e competitività già approvato, ci sarebbe un fiorire di norme che favoriscono invece gli scempi ambientali di ogni tipo: cemento, nuove trivellazioni, nuovi inceneritori, autostrade. E questo è con questo che vogliamo far crescere l'Italia. 800 24 00 24, ne parleremo più avanti. Adesso, come detto, riprendiamo a dare un'occhiata velocemente ai giornali, riprendiamo la rassegna stampa iniziata una mezz'oretta fa prima del giornale radio. Secolo XIX sulla situazione di Genova, sugli allarmi che non sono arrivati. Genova resiste è il titolo. Più danni che nel 2011, rabbia nelle strade allagate, ma la città reagisce con i suoi angeli del fango che, come sempre, si aiuta da sola, mentre le autorità si accusano a vicenda e dal governo arrivano solo parole. Un uomo di 57 anni è morto, centinaia di negozi e imprese sono di nuovo a terra e i lavori del Bisagno sono fermi da 3 anni per niente. Gli errori dell'ARPAL, rileggiamo anche questo titolo sul Secolo XIX, e le indecisioni dietro il disastro. C'è un orario preciso nel quale Genova viene condannata al disastro, sono le 18:10 di giovedì e l'assessore regionale Paita chiama gli uffici dell'ARPAL che gli dicono guardi, il maltempo è in attenuazione, vada a casa tranquilla, così le hanno detto. Sappiamo poi dopo che come si è difesa l'ARPAL, insomma la defaianza è derivata da questa, diciamo, l'estemporanea, scrivono così i giornalisti, inattendibilità di un modello matematico che però fin qua, lo ha detto anche il presidente della regione Burlando, era stato usato per prevenire queste allerta di eccessiva pioggia con successo in passato. E va bene, questo sul Secolo XIX. L'argomento è su tutti i giornali di oggi, naturalmente, anche se Repubblica ha il titolo principale su un altro argomento economico. L'Unione Europea avverte l'Italia, rientrate in regola, mentre il Fondo Monetario approva la riforma del lavoro, bene il Jobs Act. Ieri il ministro Padoan ha incontrato il commissario Katainen e i ministri delle finanze e dell'economia francesi e tedesco a Washington, ai margini del Fondo Monetario. È un po' tranquillizzato, come sempre. Altro titolo è sul Nobel per la pace, il Nobel in nome dei bambini, che va alla 17enne pakistana Malala e all'indiano Satyarthi, che ha un'organizzazione, leggiamo, all'interno di Repubblica, che si occupa della tutela dei bambini. Riconoscimento a Malala, la 17enne della Valle di Swat, ferita al collo da un studente coranico perché si ostinava a contestare il divieto per le ragazze di frequentare la scuola. Era in parte atteso. Meno prevedibile era forse il Nobel per la pace nei confronti dell'indiano che, con la sua organizzazione Bachpan Bachao Andolan, Movimento per Salvare l'Infanzia, è riuscito a liberare almeno 80.000 piccoli schiavi mantenendo, secondo i giudici norvegesi, la tradizione del Mahatma Gandhi. E il commento poi di Adriano Sofri su questo Nobel. La Stampa, titolo principale sempre su Genova, il dolore e la rabbia, città in ginocchio per l'alluvione, il sindaco dalla protezione civile, non è arrivato nessun allerta, abbiamo già detto su questo. Altro titolo principale su un'altra notizia, che pure è di ieri, un altro annuncio di Renzi: unione gay, Renzi accelera, faremo la legge, è sicuro. Le unioni civili ancora alla ribalta, Matteo Renzi da Bologna fa una solenne promessa: faremo una legge, non è una battuta, è la verità. Bologna è una delle città nelle quali c'è stato il braccio di ferro tra il sindaco e il prefetto sul riconoscimento delle unioni civili fatte all'estero. Titolo principale su questa notizia anche per Il Giorno: nozze gay sarà legge, Renzi faremo le norme sulle unioni civili, il centrodestra con Lupi però frena, non ce n'è bisogno. A Milano, Pisapia, i ferri corti col Viminale, il prefetto media. Il prefetto ha chiesto la documentazione circa i sette riconoscimenti di unioni civili fatte all'estero, riconoscimenti fatti dal sindaco Pisapia. Qui il titolo è il prefetto media, ma in realtà sappiamo che il prefetto, secondo Alfano, ha il compito di annullare questi riconoscimenti. Ecco perché ieri è intervenuto Renzi, scrive Il Giorno: faremo una legge, non è una battuta, Renzi rompe nello scontro Alfano sindaci sulla trascrizione dei matrimoni omosessuali contratti all'estero, e spariglia le carte. Nella sostanza Renzi sa che il ministro dell'interno ha ragione, i comuni non possono andare per conto loro, dunque taglia il nodo di netto, regoleremo la questione per via normativa. L'annuncio però apre un fronte dentro il governo e la maggioranza, perché il nuovo centrodestra non ci sta, la legge sulle unioni civili non è una priorità, dice il ministro Lupi, ma il premier si trova in una posizione di forza perché ha i voti in Parlamento per far passare un provvedimento del genere. Tranne gli alfaniani, infatti, sono quasi tutti favorevoli. C'è un appoggio trasversale, almeno nelle dichiarazioni, che va dai 5 Stelle, che lo sostengono da tempo, a Forza Italia, che si è più recentemente convertita. Sole 24 ore, con titolo dedicato alla lotta all'evasione. Piano anti-evasione, perdono fiscale più ampio. Si punta ad allungare il tempo per il ravvedimento. Il piano antievasione del governo entra nella legge di stabilità e lascia più tempo ai contribuenti per regolarizzare i conti con il fisco. Renzi ha annunciato che la manovra ospiterà anche la tassa unica sulla casa. Staremo a vedere. Messaggero, che si occupa sempre di tasse, come il Sole 24 Ore: tasse pagate a rate, da Equitalia più tempo per mettersi in regola. La crisi spinge sempre più italiani a pagare le tasse a rate, ormai il 50% del denaro che entra nelle casse dello Stato è il frutto di un accordo tra fisco e contribuenti, ed Equitalia sta studiando nuovi meccanismi utili. L'ipotesi alla quale sta lavorando è quella di concedere più tempo per mettersi in regola, in alcune circostanze la possibilità di rinegoziare il piano di ammorbidimento. Ancora qualche titolo rapidamente: il manifesto, la buona scuola, con la foto di una manifestazione di studenti, insegnanti, precari, sindacati nelle piazze di 90 città italiane aprono la stagione della protesta contro la riforma targata Renzi-Giannini. Negli slogan i temi del diritto allo studio, al lavoro, per una buona scuola liberata dalle nuove gerarchie di un progetto aziendalista guidato dal preside manager. Ieri credo c'è stata una manifestazione anche nella nostra città, qua a Milano, oggi ce ne sono altre in tutta Italia, 90 città. Il Fatto Quotidiano invece titola così: 200.000 licenziati e Renzi vende fumo. Perché? Perché altro che Jobs Act, da gennaio un'ecatombe di posti di lavoro spariti. Il premier presentatore alla convention della nuova fabbrica della Philip Morris, che però è stato lì, dice Il Fatto Quotidiano, senza mai pronunciare la parola sigaretta. Il Giornale si occupa di Berlusconi: decisione senza precedenti, Berlusconi obbligato a incassare 1 miliardo. Di che si tratta? Notizia misteriosa. No, è questa la notizia: la Banca d'Italia costringe il Cavaliere a cedere il 20% di Mediolanum. Il presidente Agnew Doris al Giornale: gli consiglierò di vendere ai figli. Va bene, giornale di famiglia, giornale di Berlusconi. Libero dice: l'Unione Europea chiede più tasse a Renzi, dalle parole ai numeri, annuncio dell'Europa all'Italia, cambiate la legge di stabilità o ve la bocciamo. Non bastano i 23 miliardi di balzelli e tagli già promessi, Bruxelles ne pretende 35. Altri giornali scrivono un po' meno, ma insomma, una correzione ai nostri conti è nell'aria. Il governo da dove li prenderà? Si domanda Libero. 800 24 00 24, ci fermiamo qua, torniamo tra un attimo, dopo la pubblicità. Parlare con il mio sole, scoprire il mondo che c'è, niente che non si possa fare. Si può fare. Si può fare. cronache da un paese migliore. Eccoci qua che si parte, buongiorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno a tutti. Cari ascoltatori, 800 24 00 24, vi aspettiamo, noi siamo qua. Anche stamattina, buio, buio normale, l'orario Gabardini. L'orario è sempre più buio. Sarà un lungo inverno. Esatto, un lungo inverno. Aspettiamo le vostre telefonate per mettere al vaglio le nostre buone notizie, naturalmente. E poi anche per giocare. Certo. A noi è piaciuto l'iniziativa, ne parleremo tra poco, dei sindacati dei lavoratori lirico-sinfonici, dopo la questione dell'Opera di Roma, che fanno lo sciopero al contrario. Cioè andiamo a lavorare, mettiamo da parte i soldi, perché comunque qualche integrativo privilegio in meno dovremo averlo, quindi ci abituiamo già a guadagnare un po' meno, e questi soldi li investiamo per fare pubblicità alla lirica, perché è importante, che si promuova. Sì, soprattutto perché se riparte, diciamo, il circolo virtuoso per cui anche la lirica si ripaga con lo sbigliettamento e non semplicemente con i soldi statali, forse tutto torna in una norma e c'è bisogno di licenziare di meno. Esatto. Allora, proprio nella settimana in cui invece la CGIL in testa, ma insomma i sindacati annunciano lo sciopero, la manifestazione del 25 ottobre, sciopero generale eccetera, riti che sembrano però non sconvolgere mai più nessuno, purtroppo, per fortuna, non lo so, ditelo voi. Allora noi vi chiediamo di dare suggerimenti al sindacato per far sentire la loro voce in modo nuovo, come per esempio questa cosa dei lirico-sinfonici, tipo anche altre proposte, tipo andare a pulire il parco, tagliare le erbacce, così la gente direbbe sì, fate ancora sciopero, perché... Scioperate continuamente, anzi scioperate nel mio giardino, se uno ha un giardino. Esatto, no? Oppure quando fanno sindacati di polizia, poi tutto è rientrato questa settimana, ma qualche giorno fa sono andati a donare il sangue. Perché ho detto, ci togliete il sangue, allora noi andiamo a donare il sangue. Ve lo diamo gratis. 800 24 00 24. L'idea più originale la premiamo anche questa settimana con i biglietti della mostra di Chagall. Chiamateci. Siamo molto curiosi di sapere come sciopereste voi, in che modo creativo sciopereste. A me invece questa settimana mi ha incuriosito, diciamo che proprio nella settimana delle cosiddette sentinelle in piedi, con quello che è successo, Alfano, proprio così, diciamo, per uscire forse da un momento di poca visibilità, decide di prendere posizione. Esatto. Sui matrimoni fra persone dello stesso sesso, dicendo ai prefetti di non convalidare quelli contratti all'estero. Va detto che è abbastanza normale che molti sindaci abbiano risposto non obbedisco, perché va detto che i sindaci stanno cercando di risolvere un cosiddetto vuoto legislativo che esiste in questo paese, ovvero come si fa a dire a qualcuno che si è sposato 100 km da qua che nel momento che passa la frontiera qui invece non è sposato. Quindi, per rispondere in qualche modo anche a Lupi, che dice non è una priorità, direi che dopo l'affermazione del ministro Alfano questa è assolutamente una priorità a questo punto, perché bisogna risolvere. Non è che si può avere un ministro degli interni che dice non fate questa cosa e i sindaci che dicono o lo facciamo oppure non sappiamo come uscire da tutto questo. E come ho twittato, per dire una battuta, direi che Alfano, pur di rimettersi con il suo amore Berlusconi, che fa lo stizzito con la Pascale dicendo no, io invece sono contrario ai matrimoni gay, vabbè, direi che è la cosa più gay di sempre. Va bene, 800 24 00 24. Adesso invece parliamo dello sciopero al contrario dei lavoratori lirico-sinfonici. Tutto il contrario. Le canzoni di Mengoni io le adoro, i politici italiani fanno il loro lavoro. Non mi piace Belen perché c'è denti a Castoro, e ogni quadro di Picasso è un capolavoro. E non è vero che hanno ucciso Aldo Moro, aveva solo la camicia sporca di pomodoro. Ogni consiglio che mi dai io ne faccio tesoro. Ma quegli occhi rossi è colpa del cloro. Guarda che l'Italia è un paese bellissimo, a 7 anni sono andato a Bravo Bravissimo. Andare coi trans per me è normalissimo. Andano via Vita Alta, ti stanno benissimo. Esci con tuo figlio a raccogliere le margherite, perché da quando c'è lui le tasse sono sparite. Ho messo su 10 kg, avevo solo chinotto. Non è che mangi tanto, è che assimili troppo. Tutto il contrario, è tutto il contrario. Tutto il contrario, è tutto il contrario. Tutto il contrario, è tutto il contrario. Tutto il contrario, è tutte. Bello il notiziario, grosso il mio salario, pure un segretario, non sono un mercenario. Mio Dio che bella casa, stupendo il lampadario. Tutto il contrario. Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing. Ora so che ha mangiato più twister che crauti. Si era presentato in modo strano con Chris Vicky. Ciao, sono Tiziano, non è che me lo fichi. E non è vero che il potere è in mano ai ricchi. Dietro la pitre c'è la mano di Vazzanicchi. Voglio più tasse, più IRPEF. Sono d'accordo con Dell'Utri, la mafia non esiste. Già. Una volta ho avuto il ciclo mestruale. Credo in Gesù Cristo, in Babbo Natale. Sì, sì. Pamela Prati, per me non è l'hai rifatta. E guarda, sono certo che la terra sia piatta. E come la maggior parte tutto degli italiani, il contrario. La canzone di Fedez, tra l'altro, è al centro anche di una piccola querelle per il suo inno. L'inno del Movimento 5 Stelle. L'hanno già attaccato da ogni parte, lo stanno mettendo in mezzo. Non condivido il fatto che lo mettano in mezzo. Addirittura in c'è un'interpellanza, qualcuno che ha detto, perché nella canzone ci sarebbe un momento di vilipendio al capo dello Stato. Ma sì, lasciate, in una canzone io credo che uno possa dire un po' quello che gli pare. No, secondo me non è tanto questo, perché invece secondo me è bello che vengano ascoltate, perché invece si possono passare dei contenuti anche con le canzoni. La cosa che mi fa strano è che quindi non posso fare il giudice di X Factor, ecco, diciamo che non è esattamente un ruolo istituzionale, vorrei dire, al Parlamento. Non, certo, è che il giudice di X Factor, saper distinguere gli ambiti, non è che c'è il Consiglio Superiore della Magistratura e poi X Factor, ecco, in mezzo ci sono delle altre istituzioni. Però siamo partiti da Fedez con la canzone Tutto il Contrario, che è un elenco di cose al contrario, anche piuttosto divertente. Ci si potrebbe inserire dentro anche lo sciopero al contrario, di cui abbiamo già anticipato che volevamo parlare. Abbiamo qua con noi Silvano Conti, che è il coordinatore nazionale dell'SLC-CGL, Sindacato dei Lavoratori della Comunicazione. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Perché voi avete annunciato una sorta di sciopero al contrario nel mondo dei lavoratori lirico-sinfonici. Dopo i licenziamenti, in segno di protesta con i licenziamenti all'Opera di Roma, che però è un'iniziativa che riguarda tutti i lavoratori di questo ambito. Di quante persone parliamo e in cosa consiste questa iniziativa? Ma guardi, il problema, lo diceva anche la canzone, siamo un po' al contrario, insomma, no? Noi abbiamo qui un dato fondamentale, importante per il sistema paese, che praticamente è appunto l'arte musicale, che ci è riconosciuto come eccellenza in tutto il mondo, e qui al contrario si continua ormai da diverse legislature in un'operazione di smaltimento, come dire, no? E di destrutturazione del sistema. Questa è un po' la prima questione. Riguarda, come dicevate voi, naturalmente tutta l'orchestra e il coro dell'Opera di Roma, 182 elementi, però noi crediamo che purtroppo questo percorso riguardi tutte le 14 fondazioni lirico-sinfoniche, perché è molto più facile svuotare questi prestigiosi teatri, diciamo così, di eccellenze, e praticamente fare business attraverso, voglio dire, le agenzie internazionali. Questo è il disegno ormai che questo governo, il ministro Franceschini ha detto che non ci sarà un'altra situazione come quella di Roma. Quella di Roma era un caso isolato, per le altre fondazioni non ci sarà lo stesso esito. Sì, ma questo è quello che ha detto il ministro. Franceschini è un ministro italiano. Sì. Un ministro italiano, e Franceschini. Però Conti, ci parli invece che di Franceschini, ci parli dell'iniziativa, dello sciopero al contrario. Le dico questo, sì. Per parlare dello sciopero in notare. Franceschini, con questa operazione qui, assieme, come posso dire, a Marini, in questo caso qui, a Fortes, che è sovrintendente e quant'altro, va contro la legge Brai e contro la legge che lui ha appena, come dire, emanato a fine di agosto, perché qui non era prevista nella legge nessun tipo di licenziamento, erano solamente lavoratori tecnici e amministrativi messi in mobilità, praticamente, però con la rete protettiva. Sì. Vabbè, ma però di questo abbiamo parlato, Conti. A noi interessava la vostra proposta, la vostra iniziativa, che mette in luce, mi faccia dire una cosa a mo' di introduzione, sì. Mette in luce un aspetto che secondo me è fondamentale, ma non solo secondo me, dopo aver letto anche pareri, diciamo, illustri. Cioè, qua non c'è solo un problema di privilegi, di stipendi, di lavoratori che forse in un ente pubblico erano sicuramente troppo alti, in un ente pubblico che era vicino al fallimento. Mi faccia dire, c'è un problema anche di promozione, perché è di produzione, perché se il Teatro di Roma produce l'Opera di Roma 6 spettacoli anziché 20 come succede in altri paesi, forse è anche colpa di qualche manager, di qualche dirigente. Cioè, c'è sicuramente un problema di chi ha gestito anche queste opere. Allora voi dite, noi vogliamo fare con questo sciopero al contrario mettere in luce anche questo, cioè investiamo, sì, per avvicinare, esatto, la gente alla lirica. Sì, esatto, mettere così, anche perché insomma, il problema è questo qua. Noi abbiamo la nostra opinione, le nostre cose. Purtroppo qui è un paese in cui, appunto, i politici parlano per sentito dire, ma anche i giornalisti scrivono per sentito dire. Allora, il problema è questo. Noi diciamo questo. Noi diciamo che fra varie iniziative, che faremo una grande manifestazione a Roma e altre, sì, noi pensiamo di attivare una forma di protesta e di sciopero vero, tutto sommato, al contrario. Cioè, nel senso che vorremmo comunque dichiarare come dire, lo sciopero, sì. Però praticamente noi, come dire, lavorare e le risorse che ci devono, i soldi che ci devono dare li mettono dentro un fondo, e questo fondo serve appunto a due questioni a nostro giudizio. Sì. Uno, per avvicinare il pubblico, naturalmente noi non dobbiamo mai perdere il senso del pubblico rispetto alle nostre battaglie, per dare dei biglietti, e per ipotesi, voglio dire, in un ambiente che amano, diciamo, l'arte musicale, per avvicinarli all'arte musicale e alla libertà. Perché questo è un punto fondamentale, nel senso, Conti, come mai all'estero un evento, un concerto di lirica sinfonica a Londra è un evento che richiama tutta la città, sembra una cosa figa, la gente paga un sacco di soldi per andarci, da noi non è così. No, non è così, perché praticamente è stato smantellato, cioè nel senso che praticamente lei pensi che in questo paese qui, voglio dire, non è più neanche, vuol dire, non si insegna neanche più la musica, come vuol dire, a scuola. Cioè noi siamo un dato pubblico, perché siamo suppettivi dal punto di vista pedagogico all'istruzione, ma questo non vuol dire niente, cioè ormai c'è un, come dire, è per poche, come dire, per poche lette, non c'è educazione musicale essenzialmente. E non c'è. Comunque ci stava dicendo avvicinare il pubblico allo spettacolo, sì, e poi spettacolo, e poi essenzialmente, voglio dire, comprare delle pagine, sì, di giornale, perché proprio, voglio dire, c'è una situazione, voglio dire, di giornalisti anche importanti, abbiamo letto, sì, non faccio nomi, quant'altro, che, come dire, scrivono per sentito dire. Ma può anche fare qualche nome se vuole, non c'è problema, tanto dice la sua opinione. Facciamoli anche qualche nome. Allora, qualche nome, io ho letto sulla Repubblica, tanto per dire, sì, facciamo due posizioni. Praticamente una è quella di Merlo, praticamente, sì, che lui mette le braghe al mondo sempre, e ha detto che i nostri professori d'orchestra, i nostri coristi sono i più pagati del mondo. Ebbene, il problema è questo qua, ma abbiamo mandato i CUT, abbiamo mandato le buste paga, i nostri professori d'orchestra, i nostri coristi prendono al massimo il primo violino, 2200, con tutte le indennità, anche quelle fasulle che si sono state imputate, 2200 euro al mese, in sostanza. Mm. Penso, ecco, però su questo, mi scusi. Allora, però nessuno porta, sì, queste notizie, questo è il dato. Sì. Però voi, è vero che dite, è vero che voi dite all'interno di questa iniziativa di sciopero al contrario, e comunque, diciamo, di questa vostra vertenza per ristabilire il punto di vista delle maestranze, che siete però disposti a rinunciare ad alcuni privilegi, ad alcuni incentivi, diciamo, a una parte forse di questi contratti integrativi a livello locale che ci sono. Però la risposta me la dà dopo il traffico, no, un attimo. Si può fare cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo in diretta con Si può fare, insieme a Silvano Conti, coordinatore nazionale di RSLC CGL, al quale appunto chiedevamo questo. È vero che nei contratti integrativi qualcosa da limare c'è? Senta, noi qui ormai sono da 7 anni che non abbiamo rinnovato il contratto nazionale. E praticamente l'altra questione è questa, che noi abbiamo dato, se c'è un soggetto che tiene in piedi le fondazioni di Ecosinfonica, è il sindacato. In tutte le fondazioni di sofferenza abbiamo dato indietro tutta la contrattazione di secondo livello, dappertutto. Cioè, mi scusi, avete... Cioè, nel senso, a Bologna, al Comunale, sì, per ponete al Maggio Musicale Fiorentino, mette dove vuole, per far stare in piedi queste fondazioni. Però abbiamo a Roma questo non è accaduto. Abbiamo rinunciato. Stava per accadere, diciamo, c'era un accordo sindacale che poi la CGL... È una legge. Sì. Sto dicendo che sto Franceschini sta sconfessando la legge Draghi. La legge prevede che praticamente, sì, una volta messa in regola, ci deve essere il dato di azzeramento del contratto integrativo, oltre che quello fermo nazionale. Per cui, se c'è un soggetto che ha tenuto in piedi queste fondazioni con tanta responsabilità, sono i lavoratori e il sindacato. Cioè, sono cose che non filtrano, parliamo del... Sì, ma non so, l'indennità sinfonica, l'indennità di umidità, l'indennità di frac, queste cose che abbiamo letto. Allora, io quando lavoravo... Io ho letto una dichiarazione vostra che dice che siete pronti a rinunciare a qualcosa. Ho letto male? Ma ci stiamo rinunciando, abbiamo già rinunciato quasi a 2/3 lo stipendio, ma cosa dobbiamo fare? Cioè, le stavo dicendo che in molte realtà delle fondazioni lirico-sinfoniche hanno rinunciato a quote importanti di salario per tenere in piedi queste fondazioni. No, questo è quello che volevamo sapere, poi chiaramente è una domanda, risponde come crede. Senta, però l'altra cosa che veramente non riusciamo a capire, come mai, per esempio, l'Opera di Roma, l'altra settimana abbiamo intervistato il primo trombone dell'Opera di Roma e ci diceva: noi facciamo 6 produzioni all'anno anziché 20, come accade negli altri teatri importanti delle grandi capitali. Di chi è responsabilità questo? Ma la responsabilità è naturalmente di chi gestisce, solo che qui in questo paese chi gestisce, chi dovrebbe gestire. gestire, interni gestione, le responsabilità dei sovrintendenti e quant'altro di questo tipo, non sono, però non è, non, come posso dire, non sono calcolate. Cioè noi abbiamo dei sovrintendenti che veramente creano dei disastri nelle fondazioni dove vanno e le ritroviamo nominati in altre fondazioni. Cioè qui è proprio una questione di management, è una questione di, come dire, anche di manico rispetto a tutti i sistemi della produzione. Noi, come dire, più che lavorare, produrre e praticamente lavorare anche a casa, voglio dire, perché attenzione, queste sono professionalità molto importanti che hanno bisogno, e gente che lavora col corpo, per cui importante molto, voglio dire, il dato, come posso dire, no, per la qualità produttiva, anche, voglio dire, di un continuo allenamento, voglio dire, rispetto al suonare, rispetto, come dire, al rapporto fisico in sostanza, no? Perché lei diceva c'è il problema, sì, dell'umidità, ma scusate, ma se uno diviene artrite, cioè dire, ma è una roba che gli impedisce poi di lavorare in sostanza, no? Oppure il frac, io quando lavoravo in fabbrica la tutta me la pagavano, voglio dire, il frac è un dato. L'unità strumento è che se io mi compro uno strumento da 70.000 euro è ovvio che devo avere l'indennità per tenerlo, come dire, ecco, però tutto quanto questo riguarda stipendi che si aggirano tra i 1.900 e i 2.000 euro. Cioè, di cosa parliamo, insomma? No, non lo so, va bene. Noi siamo partiti da questa idea, dello sciopero al contrario. Ci sembrava un'idea propositiva e interessante. Dopodiché l'avvertenza è aperta, andrà avanti, staremo a vedere, seguiremo. Insomma, sa qual è il punto? Sì, è che molti cittadini che ci stanno ascoltando pensano che parliamo comunque di lavoratori che hanno il privilegio di fare un lavoro che è anche una passione, no? Per molti è un miraggio. E quindi di fronte a questo tante cose cadono. È un privilegio quello di poter fare un lavoro che è anche una passione. Per molti che vanno in fabbrica credo che sia così, insomma, poi è questione di punti di vista. È un lavoro molto duro, molto complesso. Va bene, grazie Conti, buona giornata, grazie per essere stato con noi. Coordinatore del sindacato CGL, lavoratori della comunicazione, questa era l'idea, lo sciopero al contrario. Di qua siamo partiti anche per il nostro gioco di questa settimana, dove vi chiediamo di dire come sciopereste voi, in generale direi, non modo nuovo, una diversi. Categoria specifica, ma come, quale forma di sciopero vi sembrerebbe utile? Cominciamo a sentire gli ascoltatori all'800 24 00 24. Monica da Rimini, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua, prego. Io farei uno sciopero al contrario, ma proprio fisicamente, nel senso che fare il cambio di ruolo tra dirigenti e impiegati, quadri, operai. Cioè gli operai vanno al quarto piano e i dirigenti si fermano al piano terra a fare il loro lavoro. È difficile, perché bisogna convincere però i dirigenti. Sa cosa, io ero, diciamo, della vecchia guardia, sono un po' âgé, diciamo così. E quando ho iniziato a lavorare io c'era... un binomio, no? C'era una preparazione teorica, per carità, fondamentale, a cui seguiva una preparazione pratica, no? E quindi i percorsi di carriera si facevano sapendo. Sì. Oggi non è più così, può darsi. Ma per citare l'intervento di prima, si fa un po' per sentito dire. Va bene Monica, ottimo. Grazie, intanto incassiamo il suggerimento di Monica come forma di sciopero al contrario, cioè invertire non è proprio uno sciopero, ma è quasi un carnevale, direi, dove si invertono i ruoli. È un po' un mondo al contrario, esatto. Che comunque è l'auspicio di Monica. Ottimo. Achille da Como. Sì, grazie, volevo intervenire non tanto sul merito dello sciopero al contrario, ma abbiamo un'occasione unica per promuovere la lirica e il teatro alla Scala agli occhi di tutto il mondo, che è l'inaugurazione dell'Expo di Milano, dove è stata prevista la Turandot. Sì. Adesso sono partite trattative e volevo parlare col sindacalista che avevate in onda, perché siccome è il 1° maggio non vogliono più farla, cioè gli orchestrali e i sindacati si stanno opponendo, mi sembra veramente una cosa demenziale. Cioè perché non intendono lavorare il 1° maggio per la festa, esatto, dei lavoratori? Esatto. Non la sapevo questa notizia, va bene Achille, ecco, questa è una cosa adesso incredibile. Richiamiamo il sindacalista. Perfetto, sai, il 1° maggio per i sindacati è una cosa che non si tocca proprio. Ma i baristi lavorano, so. I treni anch'io vanno, lavoro, anch'io gli lavoro. Sono aperti, voi Guardi, lavorate. Cioè, esatto. Vabbè, noi lavoriamo, siamo della domenica. È unica per lanciare la lirica agli occhi di tutto il mondo e quindi favorire il turismo. Accogliamo la sua segnalazione, Achille, grazie. La vera domanda è, quindi Expo inaugura il 1° maggio? Cioè Expo, sì, con tutti i problemi che ha di lavoro, decide di inaugurare il giorno santo dei lavoratori. L'unico qua dentro che è preparato, cioè Alessandro Marco Tulli, che sta di là in assistenza e redazione stamattina, dice sì, e lui lo sapeva, e perfetto, noi no. Perfetto. Michele da Roma, mi sembra curioso. Michele da Roma, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Senta, io sento scioperi, non mi, queste sono cose che non mi interessano. Ho 83 anni, ho fatto la mia vita. Volevo solo intervenire. Se non le interessa, perché ha chiamato, Michele? Comunque. No, non interessa sugli scioperi. Io vivo in un altro mondo. Okay. Vivo nel mondo della lirica. Lei vive nel mondo della lirica? È che, sì, che è piena di scioperi, siamo proprio nel momento degli scioperi. Sì, purtroppo. Ah, comunque, appunto. Io ho avuto una compagna che è stata una grande artista lirica. Soltanto volevo criticare la situazione che c'è nei nostri teatri. Gli spettacoli vengono realizzati con registi che non comprendono, non hanno mai compreso che cosa significa libretto. Michele, dobbiamo fermarla perché abbiamo il giornale radio. Semmai ci risentiamo dopo il GR. 800 24 00 24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Questa è dell'Imagine Dragons, On the Top of the World, che ci suggerisce Alessia Pizzi, nostra ascoltatrice, che ringraziamo per il suo Si può fare in musica, che vi chiediamo a tutti di continuare chiamare, a mandarci. Esatto, chiamare 800 24 00 24, chiamateci anche per intervenire in diretta. Oggi vi chiediamo anche di dare suggerimenti ai sindacati per così scioperare in modo nuovo, per fare una protesta in modo nuovo. Perché si può prendere anche in maniera poco seria, diciamo, sì, nel senso, diciamo, metodi creativi per scioperare nel 2014. Allora, andiamo con gli ascoltatori. E abbiamo Elisa che ci chiama da Padova. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Eccoci qua. Io avrei un'idea un po' originale, nel senso che sarebbe un po' uno sciopero costruttivo, nel senso che io ritengo che gli scioperi siano sempre comunque degli strappi. Siano sempre degli strappi, dei momenti non, sì, costruttivi. Sì. Notificanti né per il lavoratore né per chi deve mandare avanti un'azienda, perché i lavoratori che non lavorano in quel momento, certo, beh, costruttivi producono. In teoria lo sono, sperano di esserlo per i risultati che vogliono raggiungere. Sì, ecco, allora, se i risultati vogliono essere raggiunti, io trovo molto più costruttivo e molto più edificante che i lavoratori e il management dell'azienda si siedano tutti ad un tavolo e in quel giorno, in quel momento, anziché fare sciopero, non ha. Elisa, nel momento topico, esatto, della sua telefonata è andata via la linea. No, non sapremo mai cosa faranno lavoratori e manager seduti intorno a un tavolo il giorno dello sciopero. Vabbè, la concertazione, mi sembra di aver capito. Ma che non l'ha detto, bisognerebbe... poteva essere una cena, una festa, poteva non essere credo qualunque altra fosse cosa. Però adesso sai? No, io la voglio sentire, Elisa. È certo che la sentiamo. Dobbiamo trovarla. È che penso che sia in realtà l'idea di fare la concertazione, solo che di solito lo sciopero avviene dopo la concertazione. Vediamo se la ritroviamo, se c'è la linea, Elisa, la risentiamo, se no, no. È stata colpita dai sindacati, forse. Walter da Firenze. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, il mio è una forma, una proposta di forma di protesta che però avviene spesso, perché da insegnante noi siamo costretti a portarci del materiale da casa. Molte scuole sono sguarnite di quelli che sono anche i mezzi più elementari. Non so, un quotidiano per far conoscere ai ragazzi cosa vuol dire essere informati. Un proiettore, qualcuno si porta da casa anche un portatile per i ragazzi svantaggiati. Quindi io potrei suggerire di fare, sì, dichiarare uno sciopero, ma quel giorno si lavora meglio per far capire ai ragazzi e quindi alle loro famiglie di cosa la scuola dovrebbe essere dotata. Cioè, quindi come si fa a lavorare meglio quel giorno? Portando questi strumenti da casa? Esatto, ma questo lo si sta già facendo. Infatti il rischio è che sembri semplicemente che allora un giorno come un altro. E uno dirà scioperate tutti i giorni, perché se il giorno dello sciopero addirittura portate i computer anche per gli studenti, per noi è perfetto. Diciamo. E allora quel giorno li porta tutti i giorni, non lo porta, e fa capire ai ragazzi che quello sciopero è al contrario. Va bene, questa è un'idea. Alla normalità. Io non so quale sarebbe la differenza con gli altri giorni, però scusi, perché io so che gli insegnanti spiegato, tutti i giorni fanno queste cose, no? Portano cose da se casa. Se io porto il mio computer tutti i giorni a scuola, un giorno non lo porto, c'è differenza. Ok, va bene. Abbiamo capito. Scusi Walter, abbiamo capito perfettamente. Oppure io che non lo porto mai perché deve essere la scuola e mi deve dotare, quel giorno lo porto e faccio capire ai ragazzi la scuola potrebbe essere migliore. Certo, molto bene. Ringraziamo per il consiglio. Grazie a lei. Buon sabato. No, a me sembra che come indicazione di sciopero al contrario sarebbe quello di non portarlo, perché quello avrebbe effetto. Cioè tutti i giorni gli insegnanti si danno da fare, quel giorno dice non facciamo nulla di extra rispetto a quello che è previsto. Sì, non è molto creativo in realtà come metodo, forse non è neanche molto al contrario, però va bene, è il suggerimento che viene da Walter. Abbiamo recuperato Elisa da Padova, sì. Eccomi, scusate. Prego. Allora, eravamo rimasti qua, lavoratori e manager intorno a un tavolo il giorno dello sciopero a fare cosa? Beh, ovviamente cercare di sbrogliare la situazione, di venire a capo della situazione, però lasciando i sindacati ad assistere alla discussione, però senza poter intervenire, perché potrebbe essere, secondo me, più utile per i lavoratori che si confrontassero direttamente con il management dell'azienda. Il management di conseguenza capirebbe direttamente dai lavoratori quello che vogliono e forse i sindacati potrebbero capire un po' di più che cosa vuol dire lavorare. Beh, ma di solito però in realtà i sindacati servono per far sentire la voce dei lavoratori al management, solo che non possono parlare tutti insieme, tutti i lavoratori, quindi parla uno, il delegato sindacale. No, certo. Evidentemente Elisa non ha molta fiducia nel ruolo di mediazione del sindacalista. No, perché io direi, allora anche il management forse deve stare zitto ad ascoltare, perché sennò... Certo, ma il management ascolta i lavoratori ascoltano il management, ma i sindacati ascoltano e non parlano. Sì, perfetto, solo che in realtà diciamo lo sciopero avviene dopo che tutto questo, che di solito è la norma, non è andato in porto, cioè che non sono riusciti a mettersi d'accordo. Non è sempre così, purtroppo certo. Sono molti filtri, troppi filtri. Va bene Elisa, va bene, abbiamo capito che il suo suggerimento per lo sciopero al contrario è questo, i lavoratori che parlano con i manager, i sindacati in silenzio a guardare, questa è la sua proposta. Che ci vuoi fare Gabardini? Michele da Roma, poi andiamo sul traffico, buongiorno. Pronto? Allora continuiamo. Senta, io appunto volevo dire che nei tavoli di... Ah sì, Michele, che giustamente ci ricordano, è quello che ha cominciato prima del GR, delle 9, sì. Ha cominciato a parlare, lei è una persona di 83 anni e lavora nella lirica, lavorava, non lo so. Sì, organizzo. Sì. Organizzo gli eventi, eccetera, ma comunque questa è una cosa... Che non le piacciono gli scioperi, ha detto che lei sta no, in un altro mondo. Non è che non mi piacciono, vorrei che anche nei tavoli, specialmente del management dei teatri, si ponesse anche l'idea di dire... Gli spettacoli che facciamo sono graditi al pubblico e perché non sono graditi tanto? Ecco, solo questo. Perché ci sono, per esempio, e l'opera, ben lo sa, è formata da cantanti, da orchestre e dalla regia. Perché lei dice che questa domanda non viene posta, diciamo? Per carità, perché ho visto... Forse perché la lirica è finanziata dallo Stato, quindi nessuno si pone il problema di stare sul mercato. Se lo Stato cominciasse a tagliare, se non fate bene gli spettacoli, come dice Muti, teatri di eccellenza, io vi taglio i fondi, e allora vedete che si cambierebbe. È un po' io vero. La mia età ho visto in tutta Europa e anche in America più di 3.000 spettacoli. Ma lei, Michele, che tipo di spettacoli organizza? Io organizzando eventi, farò presto un DVD, delle opere dove si svolgono le vicende. Sono stato il primo a portare l'orchestra sinfonica dentro il Pantheon a Roma. Insomma, in 30 anni di attività ho fatto tante cose. Ho partecipato a regie. Ma lei, scusi, è un privato o lavora nel pubblico? No, io sono stato per molti anni consulente. Dipendente dell'INPS. Poi me ne sono andato in pensione. E quindi... Dell'INPS? Sì, della previdenza sociale. Ah. Però siccome la mia famiglia è formata da, è stata sempre vicina alla lirica, cioè come passione personale, passione, porta avanti questa cosa, che adesso è diventata anche un'attività. Ma in Italia, scusi Michele, visto che lei si occupa di questo, diciamo adesso a tempo perso, ma anche come attività dopo la pensione dall'INPS, questo settore qua della promozione degli eventi culturali è un po' deficitario o è una mia idea? Perché mi sembra che uno dei problemi della lirica sia proprio quello di non essere attraente, di non avere appeal, la gente non è interessata. Ha ragione perché, lei. Ma perché non è attraente? Mentre in Germania, in Austria, in Francia, ovunque è attraente, perché vuol dire che c'è qualche carenza nell'oggetto della realizzazione. Se io metto su una bohème dove il Rodolfo Poeta scrive a macchina, una macchina Olivetti, vedo che la gente dice: ma che c'entra? C'è scritto sul programma che ho comprato, l'azione si svolge nella Bohemian di Parigi. Insomma. Vabbè, però vuol dire che non si può mai modernizzare un testo, che l'unico modo per farlo è rifarlo in maniera classica. Non credo che questo chiami più pubblico. Michele, ha sentito Gabardini? Chiama più pubblico in quel modo? Michele? Penso che se il pubblico accettasse quello che scrive il compositore e il librettista, ovviamente levando degli orpelli inutili, la gente andrebbe al teatro. Io ho visto una Carmen dove la Carmen viene violentata su una Mercedes, ma insomma le pare giusto, è una modernizzazione logica questa. Ma non lo so, vabbè, comunque se direi che sono scelte registiche, non entrerei nel merito. Vabbè, sa qual è il punto, Michele, regista, che lei ha toccato il lato, diciamo, artistico qua di Gabardini. Adesso no, che c'entra il mio, non è il mio lato artistico. No, Michele, il fatto sta che dicendo, non credo che l'unico modo per fare la lirica sia quello di farlo in maniera classica, sì, senza apportare delle modifiche, perché però la storia della musica è stata anche questa. Ci sono queste cose eccessivamente sperimentali che non interessano a nessuno, chi lo sa. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. I tacchi lo tormentano e l'asfalto non ha lacrime. Si scioglie docile come una storia stabile. Resta immobile, muto impassibile. Intanto le stagioni indifferenti lo calpestano. E tu volevi leggermi, distratta e comoda come fossi un libro già letto. Avessi cemento nel petto e sanguinavi lacrime e parole appuntite, unghie grida nella carne cruda. Ma gocciola l'anima sciolta a metà per non vedere chi si venderà serenamente a un futuro presente che per non amare si accontenterà. Cemento, trivelle, autostrade, inceneritori, è così che vogliamo far crescere l'Italia? Perché dallo sblocca Italia, il provvedimento che sta per arrivare in discussione alla Camera, al decreto crescita e competitività che invece è stato approvato, è un fiorire, secondo un allarme lanciato dall'associazione ambientaliste, di norme che deregolamentano la costruzione di nuove opere e incentivano scempi ambientali di ogni tipo. L'allarme lanciato a Legambiente, WWF, tanti altri, tra cui anche l'ex ministro Massimo Brai. Noi abbiamo convocato il responsabile dell'ufficio legislativo del WWF Italia, Stefano Lenzi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Cioè, si va dalle trivellazioni di petrolio, nuove trivellazioni, a concessioni autostradali, a facilitazioni per la costruzione di nuove opere senza i permessi dovuti, eccetera. Cioè, ieri il ministro dell'Ambiente ha detto: con lo sblocca Italia sblocchiamo i lavori per la ristrutturazione del dissesto idrogeologico, i fiumi, eccetera. Però qua, a sentire quello che dite voi, è il contrario. Che succede, Lenzi? Innanzitutto di sbocchi, diciamo così, di intervento sul risanamento del territorio non ne troviamo nemmeno uno, appunto, invece la situazione è peggiore. Cioè, non è vero quello che ha detto Galletti ieri, che ha detto ci sono 35 milioni, che poi non sono... 35 milioni? Nel 2012 il Ministero dell'Ambiente aveva indicato come risolutivi per quanto riguarda il dissesto idrogeologico 2 miliardi e mezzo all'anno. Quindi diciamo questo è un clamoroso autogol, quello del ministro, dell'attuale ministro. Nel senso che 35 milioni sono pochissimi. Sono veramente briciole. 35 milioni sono forse però ieri, un però chilometro ieri di strada. Sì, però ieri Lenzi, mi pare proprio ieri, c'è stata questa conferenza stampa del governo su Italia Sicura, coincidenza proprio con quello che è successo a Genova. Calcolano fino a 4 miliardi di euro di somme che ci sarebbero in ballo grazie all'iniziativa del governo Renzi per il dissesto idrogeologico. Anche queste però sono cifre che non si capisce bene. Guardi, nella finanziaria 2014 erano stati individuati, un tesoretto era stato individuato di 2 sì. miliardi di euro presso la contabilità speciale dei commissari regionali, ma era un tesoretto di risorse già assegnate. Sì. Il problema è che non se ne vede traccia negli interventi reali. Quindi stiamo parlando sempre di cifre teoriche, mentre cifre molto concrete, per esempio ci sono sullo Sblocca Italia, sì. cioè 3,9 miliardi di nuovi stanziamenti delle infrastrutture, di cui il 47% per autostrade, quindi cementificazione, quelli si trovano, che tra l'altro sono risorse aggiuntive rispetto a quanto ogni anno viene stabilito dalle leggi di stabilità, che è attorno ai 5 miliardi. Quanti miliardi ci sono, scusi, per nuove autostrade? Il 47% di 3,9 miliardi sono 1,8 miliardi. Quindi quasi 2 miliardi per nuove autostrade e 35 milioni per i fiumi. Sì, c'è una bella, diciamo, sproporzione. Sì, però sì. Tra le altre cose, appunto, su una stima invece di 2,5 miliardi per far fronte all'adattamento dei cambiamenti climatici al dissesto territoriale. Ma comunque non arrivano questi soldi, nel senso che sono stanziati, ma però non ci sono. No, non ci sono, ma nemmeno 2,5 miliardi ci sono soltanto quei 2 miliardi di euro, però, che sono fondi già stanziati e immobilizzati per adesso. Senta, invece, le altre cose che vi allarmano sono quali sono? Perché io ho letto, appunto, per esempio, non lo so, il tema dell'autostrada ha detto sul rischio di nuovo cemento. Il rischio di nuovo cemento nelle città, per esempio, c'è una norma che va in deroga alla stessa pianificazione urbanistica e stabilisce, diciamo, indica la compensazione, che vuol dire spostamento di volumi, sì. come una delle strategie più lungimiranti. Ci sono le... Cioè, scusi, ci spieghi un attimo meglio questa cosa? Con la scusa di dover risanare il tessuto urbano, si dice in realtà che si può derogare dalla pianificazione urbanistica e si usa anche, diciamo così, la chiave di volta del grimaldello, anzi meglio dire, della compensazione in maniera, appunto, non controllata, in modo che si possano spostare volumi nel caso che, appunto, ci siano interventi di riqualificazione da fare in altre zone della città. Cioè, scusi, se io riqualifico una zona, il comune mi dà un'altra volumetria da sviluppare altrove? Esattamente, se io cedo quella volumetria che serve per il saneamento, eccetera, dell'intervento, appunto, comunale, posso usufruire, dando quell'area, di una compensazione di volumi da altre parti. E invece, secondo voi, cosa bisognerebbe fare? Perché questo, diciamo, indirettamente favorisce la costruzione di nuove, cioè abbiamo case sfitte, abbiamo case vuote, invendute, c'è tutto un problema di capannoni che non vengono utilizzati e si costruisce ancora. Questo lo capisco che è sbagliato, ma invece cosa bisognerebbe fare in questi casi di risanamento? Favorire, riqualificare la riqualificazione del risanamento attraverso, per esempio, misure fiscali che, appunto, incentivino la possibilità del risanamento, recupero e rigenerazione urbana e invece disincentivino, appunto, nuove costruzioni. Nuove, cioè, quindi dare degli incentivi fiscali anziché dare volumetrie per costruire, perché sennò siamo puntati da capo. Poi c'è anche... Sì. Ma mi scusi, io sono lo stupido dei due, quindi forse le faccio una domanda stupida. Quello che volevo capire, giustamente, lei prima ha usato la parola grimaldello, perché mi sembra di capire che con questo, chiamandolo Sblocca Italia, che sembra addirittura una roba positiva, che uno dice una cosa bloccata che adesso si sblocca, in realtà all'interno di questo Sblocca Italia ci sono, in semplicità, senza entrare proprio nel regolamento, una marea di cose che in realtà vengono sbloccate, ma che sarebbe meglio che non venissero sbloccate, è così? Beh, assolutamente sì, fra l'altro, appunto, le tragedie di questi giorni ci dimostrano come le valutazioni ambientali, se condotte in maniera accorta e attenta, aiutano l'intervento, non lo ostacolano. Certo, se ma quali, pensate, ma quali sono, diciamo, che posso capirle anch'io che sono stupido, quali sono le cose che sono state sbloccate o che verrebbero sbloccate, delle quali dobbiamo preoccuparci, oltre, diciamo, alle trivellazioni di cui stavamo parlando? Ma, guardi, c'è, appunto, una miriade di interventi. Un'altra cosa che ho da dire rispetto alle valutazioni, soprattutto preventive, e che addirittura si cerca di sorpassare in nulla osta delle sovrintendenze, cioè se non rispondono entro 60 giorni si va avanti madama la marchesa praticamente, e gli interventi altri che vengono previsti oltre appunto alle rivelazioni si stabilisce che siano strategici a livello nazionale, però senza indicare un programma di priorità: gli inceneritori di rifiuti, i gasdotti rigassificatori, gli stoccaggi di gas e oltre appunto la ricerca, la prospezione, lo stoccaggio di idrocarburi, anche lo stoccaggio sotterraneo appunto degli idrocarburi stessi. Quindi gli interventi, diciamo così, previsti sono una miriade. Cioè anche questo tema degli inceneritori, voi dite attenzione, perché si chiama Sblocca Italia, si, diciamo, come vuoi dire, si favorisce ma anche la creazione di nuovi inceneritori, oppure l'utilizzo con maggiori margini, diciamo, di quelli esistenti? No, di costruirne di nuovi. Tra l'altro bisogna ricordare, ecco. Sì, bisogna ricordare che l'Italia è il terzo paese in Europa dopo, sì, Francia e Germania per numero di inceneritori, e che l'Europa impone che entro il 2025, certo, certo, all'incenerimento non vadano rifiuti riciclati. Perché quindi dobbiamo dire che in effetti questo obiettivo del 65% di raccolta differenziata, che è stato allontanato proprio perché si punta a bruciare rifiuti, è una stupidaggine colossale. Io lo dico così, mi assumo la responsabilità, perché i rifiuti, secondo le agenzie regionali per l'ambiente, nel cassonetto valgono 195 miliardi di euro di risorse, perché sono materie prime: plastica, ferro, rame, carta, cartone. Bruciare è una follia che costa e inquina. Questo è quello che io ho capito a questo punto, e mi pare anche sia il vostro allarme. Vabbè, insomma, mi pare che ci sia. Poi ci sono anche limiti che aumentano per l'inquinamento dei siti industriali e militari. Anche questo non si capisce perché andava sbloccato, è così? Ma quello, diciamo, è piuttosto controverso, perché sì, prima, sostanzialmente fino adesso, non c'erano tabelle sui siti militari. Il fatto che oggi siano comunque equiparati, soprattutto i poligoni di tiro o altre zone dove si sono usati proiettili per esempio molto inquinanti, addirittura in alcuni casi radioattivi, comunque ai siti industriali, può essere un progresso. Naturalmente bisogna tenere conto di quanto realmente poi si fa rispetto alla caratterizzazione del sito, perché non tutti i siti sono uguali. Per esempio appunto un sito, un poligono dove si siano usati appunto proiettili contaminati, sì, con materiale radioattivo, diverso da un altro. Comunque lo Sblocca Italia è in discussione, voi state facendo giuste pressioni perché si faccia chiarezza. Va bene sbloccare, ma non sblocchiamo delle porcate, che sono evidentemente delle porcate. Grazie intanto per essere stato con noi, Lenzi del WWF. Grazie. Bocca al lupo, credo che la vostra battaglia sia anche quella di tutti i cittadini. Poi su altre cose si può discutere, sul fatto di trivellare o no il petrolio, se sia giusto o no, in Basilicata già si fa, adesso ci sono degli studi per farlo a Favignana, nel paradiso terrestre della Sicilia. È una questione io difficile. Personalmente sono un po' contrario. No, ma perché direi che tutti così di primo acchito uno è contrario, sì, perché dice ma per come, è un posto bellissimo. Poi d'altro canto però viviamo tutti di petrolio, andiamo tutti a comprarlo il petrolio, se ce l'avessimo noi il petrolio saremmo ben felici di avercelo, giusto? Ma te immaginati se davanti alla Costa Azzurra qualcuno pensasse di fare il petrolio e ti direbbe: te sei matto, qua ci certo vengono milioni di turisti all'anno e questo è il nostro petrolio. 800 24 00 24. Sentirsi come papà senza santi da pregare, si può fare. Ed avere tanti soldi da poterseli rubare, si può fare. Eccoci qua, cari ascoltatori. Allora, andiamo sempre cercando suggerimenti per scioperi alternativi, modi di protestare per i sindacati diversi dal solito. Il suggerimento più originale vince biglietti per la mostra di Chagall. Andiamo con Nicola che chiama da Roma. Buongiorno. Buongiorno. Il mio suggerimento era per il settore dei servizi, per tutte le aziende che offrono servizi. Bene, nel giorno di sciopero gli addetti di queste aziende lavorano, ma non fanno pagare il servizio, oppure non controllano il pagamento del servizio. Quindi per esempio sulle tipo caselle autostradali, questo caselle succede autostradali, ogni tanto, cioè lo sciopero non si paga. Oppure anche è una sulle ferrovie, sulle sulle aziende aeree, per esempio, no? Perché in questo modo il danno non va all'utente, ma va all'azienda, che è l'obiettivo dello sciopero. Beh, sì, no? sull'aereo diventa molto pericoloso, perché non controllare i biglietti vuol dire tutta la questione della sicurezza, quindi non controllare nemmeno se qualcuno ha pagato o non ha pagato, che può salire chiunque, mi sembra molto difficile. Beh, si può comunque controllare la persona, no? Si può controllare con i documenti di identità, almeno la possibilità è di organizzarlo se uno vuole. Certo, ma sì, bene, sì, no, Nicola. Dico, sull'aereo è più difficile, magari invece non controllare il biglietto del tram è più semplice. Diciamo che è una forma di protesta alternativa che si adatta bene ad alcuni lavori. Fiorella da Milano. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo facevo una riflessione. Tutto il volontariato è una forma di sciopero, al contrario, perché tutto il volontariato va a supplire a quelle carenze e dice allo Stato: tu non ci sei, tu non fai, ma faccio io. Quindi tutti quei piccoli interventi, queste persone vorrebbero magari urlare il fatto che poi ci sono un sacco di carenze, invece di urlare, di non fare, fanno. Però il volontariato è anche una cosa bella da fare in sé per sé, è una forma di lavoro più che una forma di sciopero. Certo, però è proprio una forma di sciopero al contrario, invece di stare ferma faccio io quello che tu non fai, e lo faccio dal piccolo al più grande, eccetera. Quindi ma questo potrebbe essere, Fiorella, anche un suggerimento per i sindacati nel giorno dello sciopero, fare per esempio del volontariato? Certo, perché sa che è successo per esempio in alcune aziende, alla Alessi in Piemonte, invece di mandare in cassa integrazione i lavoratori, l'azienda li ha mandati a fare i lavori socialmente utili. Anche non in cassa integrazione, so che alcune aziende si chiedono ai lavoratori di dare una o due giornate che poi dopo loro pagheranno, e invece di svolgere il lavoro all'interno dell'azienda vanno ad imbiancare una casa di ricovero per anziani o fanno queste cose. Non è proprio una forma di sciopero, ma è una forma, come dire, secondo Fiorella può anche esserlo, insomma, lei la vede così, o di denuncia. Sì. Grazie. Grazie. Buona giornata. Andiamo, chi abbiamo? Flavia da Brescia? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Io sono Flavia, sono un'insegnante in pensione. E posso parlare? Certo, no? Che può, deve. Ah, va bene, allora io riguardo agli scioperi suggerirei di stare in classe, gli insegnanti li manderei in classe con gli allievi per tutto il tempo che attualmente passano in riunioni, consigli d'istituto, consigli, assemblee assolutamente inutili, tediosi, controproducenti anche. Oddio, magari proprio tutte inutili non saranno, Flavio, però. Manderei i sindacalisti a fare i verbali di tutte queste cose. Vabbè, cioè, però, nel senso che lei mi sembra che voglia punire il sindacato in realtà, più che fare uno sciopero. Non è che voglio punire il sindacato. Il sindacato ha fatto un cambiamento non accettabile, cioè ha fatto lavorare di più gli insegnanti, ma nella scuola devono lavorare i ragazzi. E gli insegnanti devono aiutare i ragazzi a imparare, a studiare, a lavorare da soli magari, a responsabilizzarsi. Ma in che senso devono lavorare i ragazzi, scusi? Mi scusi. Prego, prego. Allora, i ragazzi adesso ripetono un bla bla tante volte, no? I più bravi sono quelli che ripetono il libro a memoria. Però questo dipende dagli insegnanti, direi, non dai sindacati. Allora, i sindacati però, invece di, diciamo, a parte che la selezione degli insegnanti che è pessima, no? Però anche questa non la fanno i sindacati. Oh, scusate, io mi sono perso, la signora ha chiamato per dare un suggerimento per uno sciopero al contrario, non ricordo più qual è. Flavia, in sintesi, la sua proposta di sciopero al contrario, qual è? Allora, stare in classe tutte le ore che noi dedichiamo ai verbali, alle riunioni, ai consigli di classe, ai consigli di istituto. Quindi rinunciare alle parti burocratiche, rinunciare del lavoro dell'insegnante. Non perfetto. È che si possa rinunciare veramente non si può. Però non si può passare dei pomeriggi interi a chiacchierare del nulla. Va bene, Fiorella. Certo. Grazie. No, Flavia, perché ho detto Fiorella? Già due volte che dico Fiorella. C'era stata forse una Fiorella prima, ma questa era Flavia. Luigi da Imperia. Ah, buongiorno. Guardi, volevo parlare dei fatti di Genova in generale, partendo da... E allora, una frasetta della Bibbia dice: guai a quel paese che ha come re un ragazzo. Poi Renzi, nella sua ipocrisia, prima delle elezioni del 13, continuava a dire continuamente: niente grandi opere, asili nido, niente finanziamenti ai partiti. Poi arriviamo a Genova e invece si fanno allo, cioè, nella sconosciuta a tutti gli italiani, grandi opere inutili, soprattutto se vuole il numero TAV, Mose, Spo, ma la gente non sa di altre, Terzo Valico, Brennero, autostrada Orte Venezia, miliardi che servono solo a niente se non a arricchire i corrotti. Arriviamo a Genova, e a Genova è questo. Allora, cose relativamente più semplici, tipo l'ambiente, il territorio, non si fanno, ma si fa il Terzo Valico. Genova spende, la regione Liguria spende 2 milioni di euro per il Giro d'Italia il prossimo maggio. Sì. Questo che voglio dire io, cioè, Luigi, lei ha delle ragioni sicuramente, ne abbiamo parlato prima con il responsabile del WWF, cioè lui ha detto chiaramente che mentre ci sono sono sonanti i soldi per costruire nuove autostrade, i famosi soldi per il dissesto idrogeologico sono sempre di meno e sono sempre più teorici. A volte bisogna anche aggiungere però, come è caso del Bisagno a Genova, c'è un contenzioso del TAR che dura 3 anni e che blocca i lavori, quindi non è colpa né di Renzi né del governo precedente né di quello precedente ancora, ma di un sistema italiano, anche della giustizia, lento e incomprensibile. Adesso basta ascoltatori, dobbiamo poi decidere a chi assegniamo il premio oggi per l'idea più originale di sciopero al contrario. Si è fatto un'idea, Gabardini, su chi ti è piaciuto di più per il momento? Mica tanto. Va bene, non può parlare Gabardini. Perché non può parlare? Non lo so, ecco, no, adesso, certo, può parlare. Adesso sì. Posso parlare. Perché ho sei perseguitato dalla sfiga. Oggi la luce del microfono si è spenta e quindi tu non sai se parli o no. Nel senso che ho appena imparato a gestirmi io il microfono, ma non funzionano le spine del microfono e allora diventa molto difficile. Diciamo. Ma io mi prendo volentieri tutta la colpa, ci mancherebbe altro. No, sono lo statero dei due, tra l'altro. La quindi colpa è della giusto. Lampadina non è tua, ma l'altra volta c'era stato un altro problema. Cos'era? Non me lo ricordo. Le cuffie, sembra, forse, che non funzionavano. Ma comunque non parliamo di problemi tecnici, che non è problema. In redazione, lì dirà in regia, mi raccomando, dobbiamo decidere poi tutti insieme a chi assegniamo il premio. Facciamo il traffico, Peter, anche tu puoi partecipare. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, come si può fare? Di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Adesso è il momento di parlarvi di altri due finalisti. Sono 8, ne abbiamo sentiti già 4 del concorso AXA Nati per Proteggere. Ne abbiamo parlato quando è stata lanciata l'iniziativa. Ci sono 8 storie di persone, associazioni, enti che si occupano di storie di protezione, cioè cercano di fare qualcosa a favore di qualcun altro. In ballo c'è un premio da 50.000 euro per il vincitore. Potete andare sul sito per votare. Sentiamo altre due storie. Leggere. Leggiamo pochi libri in Italia, ci sentiamo spesso dire. Ma pochi sanno che, invece, i bambini sono dei lettori voraci, sempre, in tutte le situazioni. Per loro leggere è un modo per conoscere il mondo, purché siano stimolati a farlo dalla nascita. Di questo si occupano i volontari di Punto Lettura, che si spingono fino nei quartieri meno fortunati, come spiega Tiziana Cristiani. Le azioni di Nati per Leggere hanno tanti obiettivi, tra questi anche quello di coinvolgere tutte le famiglie e colmare la distanza che in alcune aree d'Italia soprattutto è ancora molto, molto forte, no? Il gap socioculturale è ancora molto forte. Allora il nostro progetto si pone anche l'obiettivo di colmare questa distanza e di rendere eque le opportunità per tutti i bambini ovunque essi si trovino. Sono nati per proteggere anche i ragazzi della startup fiorentina Tridom. Giardini, alberi, siti da bonificare, piste ciclabili. Per loro ogni opera verde, ogni progetto di riforestazione merita di essere sostenuto economicamente. È quello che cercano di fare con la loro piattaforma web, come racconta Fiamma Romano. Abbiamo lanciato il primo sito di raccolta fondi per realizzare a Firenze progetti di sostenibilità ambientale, come ad esempio parchi urbani e piste ciclabili. Si tratta di progetti che di questi tempi, a causa di mancanze di risorse pubbliche, resterebbero sulla carta e invece con il sito di Plan B vengono realizzati proprio grazie al contributo delle persone e delle aziende interessate alla loro realizzazione. Vorremmo ora espandere questa iniziativa in tutta Italia. In questo modo chiunque potrà ottenere sotto casa propria le opere verdi e le migliorie che desidera, e inoltre avrà sempre la possibilità di proteggere l'ambiente e il paesaggio in tutta la nostra bellissima Italia. Per conoscere e votare queste e le altre storie, andate sul sito natiperproteggere.it. Senza saper suonare, volevo dirtelo, adesso stai a sentire, non ti confondere, prima di andartene, devi sapere che il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, io e te. Altro che il Luna Park, altro che il cinema, altro che internet, altro che l'opera, altro che il Vaticano, altro che Superman, altro che chiacchiere. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi. Il grande spettacolo dei tesori dell'arte italiana da riscoprire domani con la FAI Marathon. Per sapere di cosa si tratta abbiamo qua con noi Sofia Bosco, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Si tratta di una manifestazione all'interno di una settimana di raccolta fondi interamente dedicata alla nostra fondazione. Sono passeggiate che si terranno, passeggiate, è una maratona lenta, tanto per capirci, il contrario di quello che uno pensa, una maratona dove non si corre ma si passeggia, che è stata organizzata in 120 città italiane con percorse insoliti e bellissime, anche in tutti i luoghi sotto la tutela del FAI. Anche se piove in questi giorni, in alcuni luoghi, però al sud no, al centro sud addirittura è quasi estate. Ma poi se è così lenta, si potrà usare l'ombrello, si potrà usare, giusto? Pensavo si può schivare la pioggia. È piena di portici, è piena di luoghi anche all'interno di posti insoliti che saranno aperti in questa occasione, quindi certo. Ci saranno delle sotte previste. È un'iniziativa per raccogliere fondi per la nostra fondazione. Sapete voi che il FAI da anni si adopera per conservare per tutti, per la collettività. Il FAI è il Fondo Ambiente Italiano. Esatto, ricordiamo. Hanno bisogno di aiuto. C'è il nostro sito dove avrete tutte le informazioni, che è il www.fondoambiente.it, con gli itinerari dettagliati, e soprattutto mi raccomando, potete anche aiutare mandando un SMS al 45506 o anche telefonando da rete fissa. Questo piccolo aiuto, anche per chi non avrà voglia di passeggiare con noi nella FAI Marathon, perché non lo potrà fare o perché avrà altro impegno, perché è brutto tempo, è un aiuto enorme che si dà al FAI, è un investimento nelle nostre bellezze, nella felicità che queste bellezze ci danno, è un segno soprattutto di appartenenza a un movimento civile che vuole un cambio di tendenza, che vuole che le abitudini, dei comportamenti anche che in questi tempi hanno provocato tanti disastri, cambino. Ed è un cambio che deve venire dalla base della società. Noi crediamo molto nella funzione, nella mentalità. Senti questa brava Sofia che ha fatto, bravissima, ha detto tutto, il sito, complimenti, il veramente rapidissima, precisa, esaustiva. Ricordo la FAI Marathon, venite perché ne vale la pena, saranno delle passeggiate veramente una sorpresa per tutti voi, e sarà una maniera divertente di aiutare l'Italia e di aiutare una fondazione come la nostra che lavora con voi, per l'Italia, per sempre, per tutti. Quindi generosi, o un SMS fantastico al 45506, o se no mettetevi un paio di scarpe comode e andate a scoprire. Oppure entrambe le cose. Senta, per non sembrare totalmente schizofrenici, siccome poco fa abbiamo parlato di alcuni rischi che ci sono in Italia per quanto riguarda la nuove costruzioni, nuovo cemento, nuove autostrade, tutto quello che va contro quello che dite voi, in cui noi crediamo moltissimo, cioè il paesaggio, l'Italia che deve spingere il turismo e non nuove trivellazioni di petrolio, per esempio, sì, dico io per quanto mi riguarda. Siete anche voi preoccupati per alcune norme dello Sblocca Italia, per alcune previsioni, diciamo, di deregulation cementifera o no? Assolutamente sì. Sì. Assolutamente sì, anche noi abbiamo fatto delle azioni di sensibilizzazione agli esponenti parlamentari e al governo. Crediamo che comunque slegare un po' quest'Italia che è imbrigliata da un'amministrazione assurda e assolutamente complicata è necessario, però non si può fare in maniera schizofrenica, nel senso che non si può, per la fretta di cambiare le cose, sì, farle poi in maniera che invece di migliorare si va in direzione contraria. Mi piace questa cosa dello sblocco schizofrenico, perché si vuole sì, creare un effetto, così se ne crea uno quasi esattamente opposto. Alle volte le cose si fanno in buona fede e quindi è soltanto una mancanza di conoscenza precisa dei problemi che si stanno trattando, e quindi è necessaria che la società civile si attivi, che si faccia viva. La Repubblica siamo solo noi. Ma quindi tutti noi. In questo caso c'è buona fede, dice? No, io non credo che ci sia buona fede, c'è più che altro ignoranza della portata dei danni che si possono fare, non tenendo conto di quella che è una procedura che segua leggi ben precise, e andare in deroga alle leggi che ha creato tanti problemi. Quindi non c'è cattiva fede, diciamo, secondo lei, perché dice c'è ignoranza, quindi non è che c'è del dolo, che qualcuno lo fa apposta per dare dei diritti. Io vorrei sperare che non ci sia, sperare che non ci sia, perché questa è l'unica cosa che posso dire così, per dormire sonni tranquilli. Certo. Quello che sicuramente c'è è che la fretta non è una buona consigliera, che spesso le norme si contraddicono una con l'altra, e questo è per un mancato approfondimento di come si devono impostare le situazioni, e anche perché, diciamo la verità, l'Italia non ha ancora una visione globale, programmatica, completa di quella che dovrebbe essere la visione per l'ambiente del nostro paese. Di questo sono convinto anch'io. Stiamo andando ancora a tentoni. Sì, quindi bisogna cambiare un po' la mentalità. Non abbiamo recepito le normative europee e internazionali che altri paesi hanno già fatto prima di noi e che vanno nella direzione del non consumo del suolo, della messa in sicurezza delle aree idrogeologiche e di una responsabilità dei singoli e delle amministrazioni comunali, perché usino effettivamente gli strumenti che dispongono per bloccare questo insano e assolutamente schizofrenico consumo di risorse. Ma lei è bravissima, è scaldata alla grande Sofia Bosco. Deve andare a parlare con Renzi, che così anche se le dà solamente un'oretta, come ha dato ai sindacati, lei in un'oretta, secondo me, spiega tutti i problemi del paese. Va bene. Sì, ma io lo farei pure se fosse possibile farlo. Grazie. Comunque, intanto, grazie. Sono più italiani, non uno solo, più italiani che danno. Giusto. E poi l'appuntamento con il Fai Marathon, naturalmente. Grazie, Sofia Bosco. Io un aiuto. Sì, sì. Voglio chiudere, abbiamo un minuto, con un ultimo ascoltatore e poi diciamo chi vince. Paolo D'Alecco. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Io la metterei un po' su ridere questa cosa dello sciopero, perché così come è fatta adesso mi pare che danneggi il lavoratore che perde una giornata di lavoro e gli utenti dei servizi che non ce li hanno. Per cui penso che quando si arriva allo sciopero è perché è finita la fase un po' così delle parole. E quindi? Allora, la metterei un po' in maniera simbolica, direi, nel senso che io proporrei ai lavoratori che scioperano di andare vestiti un po' da pagliacci, da clown, un po' per dire ci trattano da buffoni, nel senso che non ci ascoltano, non ascoltano le nostre rivendicazioni. Dall'altra parte direi abbiamo dei capi, dei responsabili, dei superiori che sono dei buffoni. Sarebbe una maniera, mi pare, tutto sommato simpatica e simbolica per far presente un problema, per dare anche grande visibilità. Penso che la gente si accorgerà. Va bene, anche Paolo, grazie. Lei entra in extremis anche lei nel nostro gioco. A questo punto però dobbiamo tirare le fila. Sì, sì. E tiriamo le fila. Diamo 2 secondi, 3 secondi all'elaboratore. L'elaboratore si può fare, che sono le nostre menti, per pensare, ma in realtà. Ecco il rullo dei tamburi. Secondo noi, la vittoria va a Elisa da Rimini, che ha proposto. No, che c'è? Non ho detto bene, non è Elisa da Rimini. Monica da Rimini, ho sbagliato, che proponeva uno scambio da carnevale, uno scambio fra dirigenti e lavoratori, quindi i lavoratori vanno a fare i dirigenti vanno a fare i lavoratori. Non è proprio una forma di sciopero, ma è quello che ci era piaciuto di più. Grazie a tutti, da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Grazie a Alessandro Marcotulli, Giorgio De Luca, Andrea Piana, Peter Bescapè. Ci sentiamo domani, ciao.